Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Tutti gli eventi di quella notte sono di grande importanza perché sfociarono in una situazione di stallo che cambiò solo all'arrivo di Jim. Egli era nell'interno da più di una settimana e la prima azione contro il nemico era stata diretta da Dane Warris. Questo giovane intelligente e coraggioso, che sapeva combattere alla maniera dei bianchi, voleva risolvere la questione senza indugio, ma non riuscì a imporsi ai suoi uomini. Non aveva né il prestigio razziale di Jim, né la sua reputazione di invincibilità e di poteri sovrannaturali. Non era l'incarnazione tangibile, visibile, dell'assoluta verità e della sicura vittoria. Per quanto ben voluto, stimato e ammirato, rimaneva uno di loro, mentre Jim era uno di noi. Inoltre, l'uomo bianco, gigante fortissimo in sé, era invulnerabile, mentre Dane Warris poteva venire ucciso. Queste considerazioni inespresse determinarono l'orientamento dei maggiorenti della città, i quali decisero di raccogliersi nel forte di Jim per deliberare sul da farsi, come se sperassero di trarre saggezza e coraggio dalla dimora del bianco assente. Dando prova di grande efficienza e ardimento, Gemma aveva assunto il comando delle operazioni e ai suoi ordini si erano posti gli uomini di Jim, che avevano lasciato il loro piccolo distaccamento sotto la palizzata per andare a formare la guarnigione. Intorno a lei si affollavano i rifugiati. Ella mostrò per tutta quella vicenda, fino alla sua tragica conclusione, uno straordinario spirito combattivo. Era a lei che Dane Warris si era rivolto alla prima notizia del pericolo, perché deve sapere che Jim era l'unico a Patusan a possedere una scorta di polvere da sparo. Nel consiglio tenutosi alle 11 di sera nella sala da pranzo di Jim, ella appoggiò la raccomandazione di Warris di un'azione decisa e immediata. Mi è stato detto che stando in piedi accanto alla sedia vuota di Jim, al posto d'onore della lunga tavola, fece un discorso appassionato e battagliero che al momento sollevò mormorii di approvazione nel gruppo dei capivillaggio. Il vecchio Doramin, che da più di un anno non si faceva vedere fuori dal suo palazzo, era stato trasportato fino a lì con grande difficoltà. Naturalmente era l'uomo più autorevole di tutto il consesso. I presenti non erano inclini al compromesso e la parola del vecchio sarebbe stata decisiva, ma io credo che questa parola egli non abbia voluto dirla, ben conoscendo quanto focoso e audace fosse quel suo figlio. Fu così che prevalsero orientamenti più prudenti. Al consiglio il Rajà era rappresentato dal diplomatico Cassim, che parlò pochissimo e ascoltò tutto con viso sorridente, molto cordiale, ma indecifrabile. Alla presenza di suo padre, Dane Warris non aprì bocca, benché la ragazza a nome di Jim lo supplicasse di dire il suo parere. Era così preoccupata che gli mise a disposizione gli uomini di Jim per cacciare immediatamente gli invasori, ma l'altro si limitò a scuotere la testa dopo aver scambiato un paio di occhiate con Doramin. Infine il consiglio si sciolse dopo aver deciso che le case più vicine al fossato sarebbero state notevolmente rinforzate per tenere sotto controllo la barca del nemico. Contro questa non sarebbe stato portato alcun attacco per indurre i banditi sulla collina a uscire allo scoperto e imbarcarsi. A questo punto si sarebbe fatto fuoco contro di loro e la maggior parte sarebbe rimasta certamente uccisa. Per tagliare la fuga ai sopravvissuti e impedire che ne arrivassero altri, Doramin ordinò a Dane Warris di condurre una squadra di bugi armati lungo il fiume fino a un certo posto, a 10 miglia a valle di Patusan, allo scopo di bloccarne il corso con le canoe e tenerlo sotto tiro da un accampamento sulla riva. Non credo affatto che Doramin temesse l'arrivo di forze fresche. Penso piuttosto che la sua condotta fosse guidata dall'unico desiderio di tenere il figlio fuori dal pericolo. Fu subito iniziata, sotto la supervisione della ragazza, la distribuzione di polvere da sparo, pallottole e cartucce a percussione. E poiché nessuno sapeva esattamente dove si trovasse Jim, furono inviati a cercarlo parecchi messi in diverse direzioni. Questi uomini partirono all'alba, ma prima di allora Cassim era riuscito a stabilire un contatto con l'assediato Brown. Lasciando il forte per tornare dal suo padrone, quest'abile diplomatico e confidente del Rajà aveva preso con sé sulla propria barca Cornelius, che aveva trovato mentre si aggirava silenzioso nel cortile. Cassim aveva un suo piccolo piano e lo voleva come interprete. Avvenne così che verso la mattina, mentre stava riflettendo sulla sua disperata situazione, Brown udì provenire dall'avvallamento paludoso e coperto di vegetazione una voce tesa e tremante che gli chiedeva in tono amichevole, in inglese, il permesso di salire fin lassù con la promessa dell'incolumità personale, poiché doveva comunicare un messaggio della massima importanza. Provò una grande gioia. Se gli parlavano, voleva dire che non era più un animale braccato. La voce diceva che era un bianco, un vecchio povero e rovinato che viveva lì da anni. Una nebbiolina fredda e umida gravava sui fianchi dell'altura e dopo qualche altro scambio di battute Brown esclamò: «Vieni allora, ma bada bene, da solo!» In realtà, mi disse con il viso contorto dalla rabbia al ricordo della propria debolezza, non aveva scelta. Non riuscivano a scorgere che pochi metri davanti a loro e nessun tranello avrebbe potuto rendere ancora più debole la loro posizione. E subito dopo comparve la figura indistinta di Cornelius nel suo aspetto di tutti i giorni, con un paio di pantaloni e una camicia laceri e sporchi, scalzo e con il capo ricoperto da un casco coloniale dalla tesa rotta. Una mezz'ora di colloquio confidenziale con Cornelius fu sufficiente a Brown per rendersi conto della situazione politica di Patusan. Subito aprì bene le orecchie. C'erano delle possibilità, possibilità enormi, ma prima di discutere le proposte di Cornelius, pretese che gli fosse mandato del cibo come prova di buona fede. Cornelius si allontanò con il suo passo lento e strisciante giù per la collina dal lato del palazzo del Rajah, e dopo un po' arrivarono uomini di Tunku Alang con scarse provviste di riso, cili e pesce secco. Era incomparabilmente meglio che niente. Più tardi tornò Cornelius accompagnato da Cassim, che arrivò in sandali, ricoperto dalla testa ai piedi da una veste blu scura e con un'aria piena di fiducia e cordialità. Strinse dignitosamente la mano a Brown e i tre si appartarono per avere un colloquio. Cassim non aveva grande simpatia per Dorami nei suoi bugi, ma soprattutto non tollerava la nuova situazione. Aveva dunque pensato che questi bianchi potevano, unendosi ai seguaci del Rajah, attaccare e sconfiggere i bugi prima del ritorno di Jim. A quel punto egli sarebbe stato abbandonato, ne era certo, da tutti gli abitanti della città, e il regno dell'uomo bianco che proteggeva i poveri sarebbe finito per sempre. Brown mantenne un contegno serio e impenetrabile. Quando aveva udito per la prima volta la voce di Cornelius che chiedeva di essere ricevuto, aveva sentito nascere in sé solo una tenue speranza di fuga. Nemmeno un'ora dopo altri pensieri gli si agitavano nella testa. Spinto dall'estremo bisogno, era arrivato lì per rubare del cibo, qualche tonnellata di gomma o di caucciù, forse un gruzzoletto di dollari, e si era trovato preso in una rete di pericoli mortali. Ora, dopo quegli approcci di Cassim, cominciò a credere che fosse possibile impadronirsi di tutto il paese. Nel corso dei colloqui con Cassim si accorse che quelli erano convinti che lui avesse in mare una grossa nave con molti uomini. Cassim lo pregò con insistenza di ordinare agli uomini della nave, con quei grossi cannoni, di risalire il fiume senza indugio e di metterla al servizio del Rajah. Brown si dichiarò disposto a farlo e su questa base le trattative furono condotte nella diffidenza di entrambe le parti. C'erano le premesse per un ricco bottino. Cornelius, che al loro campo era diventato di casa, non lo mollava un istante. Gli indicava le località, gli forniva consigli, gli dava la sua versione del carattere di Jim e commentava a modo suo gli eventi degli ultimi 3 anni. Brown, che ascoltava con attenzione ogni parola, pur con un'aria apparentemente indifferente e distratta, non riusciva a rendersi conto con esattezza di che tipo d'uomo potesse essere questo Jim. Come si chiama? Jim. Jim. E poi? Non basta per il nome di un uomo. Qui, rispose Cornelius sdegnosamente, lo chiamano Tuan Jim, come a dire Lord Jim. Chi è? Da dove viene? Chiese Brown. Che tipo d'uomo è? È inglese? Sì, sì, è inglese. Sono inglese anch'io, della Malacca. È uno stupido, tutto quello che deve fare è ammazzarlo, così diventerà lei il re del paese. Appartiene tutto a lui, spiegò Cornelius. Pensavo che fra non molto si potrebbe convincerlo a fare a metà, commentò Brown a mezza voce. No, no, la cosa da fare è ucciderlo alla prima occasione e poi potrà fare quello che vuole, insistette Cornelius con tono grave. Sono molti anni che vivo qui e le do un consiglio da amico. Fingendo di accettare la diplomazia di Cassim, Brown si proponeva di guadagnare tempo. Era giunto alla conclusione che per portare a termine un colpo del genere doveva venire a patti con quel bianco. Non poteva immaginare che quel tipo, che doveva essere maledettamente abile, dopo tutto, per avere tanta presa sugli indigeni, potesse rifiutare il suo aiuto grazie al quale avrebbe potuto abbandonare quella tattica lenta, cauta e rischiosa, che era l'unica condotta possibile per chi doveva lavorare da solo. Lui, Brown, gli avrebbe offerto la forza. Nessuno avrebbe avuto esitazioni. Tutto stava nel trovare un'intesa chiara. Naturalmente avrebbero spartito. Mi dispiace non poterle raccontare questa parte della storia, che naturalmente mi è stata riferita soprattutto da Brown con le sue stesse parole. Nel discorso rotto e violento di quest'uomo, che mi svelava i suoi pensieri con la gola già stretta dalla mano della morte, c'era una ferocia esplicita e determinata, un atteggiamento stranamente vendicativo nei confronti del proprio passato. una fiducia cieca nel suo diritto di rivalsa verso il genere umano, qualcosa di quel sentimento che indusse il capo di un'orda di nomadi assassini a definirsi fieramente il flagello di Dio. Non c'è dubbio che l'innata crudeltà, che era tipica del suo carattere, fosse stata esasperata dall'insuccesso, dalla sfortuna e dalle recenti privazioni, oltre che dalla posizione disperata in cui si trovava. Ma ciò che soprattutto sbigottiva era il fatto che, mentre studiava il suo piano di subdole alleanze, decidendo quale sarebbe stato il destino di quel bianco e tramando con Cassim con grande disinvoltura e spregiudicatezza, si poteva capire che la cosa che gli stava particolarmente a cuore, quasi suo malgrado, era di portare il terrore e la devastazione in quella città della giungla che l'aveva sfidato, vederla cosparsa di cadaveri avvolta nelle fiamme. Ascoltando quella voce spietata e pur rotta dall'affanno, potevo immaginare come dovesse raffigurarsela dall'alto del colle, come la popolasse di scene di strage e di rapina. All'improvviso, al di là del tratto incolto punteggiato da piccole macchie di vegetazione bassa e fitta, da scavi e da mucchi di rifiuti e attraversato da sentieri, un uomo solitario, che la lontananza faceva apparire piccolissimo, uscì allo scoperto, nella strada deserta fra gli edifici chiusi, scuri e senza vita, che segnavano la fine del villaggio. Brown lo vide e chiamò subito al proprio fianco il disertore Yankee, che fungeva in un certo senso da suo vice comandante. Il magro ed inoccolato americano venne verso di lui con la sua faccia legnosa, trascinando pigramente il fucile. Si piegò su un ginocchio e, presa la mira, con l'arma appoggiata alla solida attaccatura di uno dei rami di un tronco abbattuto, fece fuoco, alzandosi subito dopo a guardare. L'uomo lontano volse la testa allo sparo. Fece un altro passo in avanti, parve esitare e cadde di colpo con le mani e le ginocchia a terra. «In questo modo facemmo loro vedere di che cosa eravamo capaci», mi disse Brown. «Fargli capire che la morte poteva arrivargli addosso con la velocità di un fulmine. Era questa la cosa da fare. Eravamo 200 contro uno, e questo diede loro qualcosa su cui riflettere per quella notte. Nessuno di loro aveva idea che si potesse arrivare a colpire così lontano. Quello scagnozzo del Rajà aveva gli occhi fuori dalla testa quando scese dalla collina. Ormai Cassim se n'era andato, molto impressionato e soddisfatto, ma provando anche un certo disagio. Proseguendo nella sua tortuosa politica, aveva inviato un messaggio a Dane Warris per avvisarlo dell'eventuale arrivo della nave dei Bianchi che, secondo alcune informazioni che aveva raccolto, stava per risalire il fiume. Ne minimizzò la forza e lo esortò a opporre resistenza al suo passaggio. Questo doppio gioco rispondeva al suo disegno di tenere divise le forze bugi e di indebolirle impegnandole nei combattimenti. D'altro canto, nel corso della stessa giornata, aveva mandato un messaggio all'assemblea dei capi bugi riuniti in città, assicurandoli che stava cercando di convincere gli invasori a ritirarsi e chiedendo insistentemente polvere da sparo per gli uomini del Rajà. Quella sera il tessuto sociale, assicurato da una vita ordinata e pacifica in cui tutti avevano la certezza del futuro, l'edificio che Jim aveva costruito con le sue mani, sembrava sul punto di crollare in un mucchio di rovine grondanti sangue. I più poveri si stavano già dando alla macchia o fuggivano verso l'interno, risalendo il fiume. Molti membri dei ceti più elevati giudicarono necessario andare a rendere omaggio al Rajà, i cui giovani, peraltro, li ricevettero con maniere rudi. Solo il vecchio Doramin riusciva a tenere uniti i suoi e a proseguire senza tentennamenti nella sua tattica. Dalla sua grande sedia, dietro l'improvvisata palizzata, dava gli ordini con la sua voce cavernosa e velata, impassibile come un sordo in mezzo a quella bufera di voci e dicerie. Allora uno dei bianchi ricordò che nella barca era rimasto un po' di tabacco e, incoraggiato dall'impunità dell'isolano delle Salomone, disse che sarebbe andato a prenderlo. A queste parole tutti gli altri si rallegrarono. Brown, interpellato, rispose sprezzante: «Fa pure val diavolo!» Secondo lui non c'era alcun pericolo a scendere fino al fossato al buio. L'uomo scavalcò il tronco e scomparve. Poco dopo lo si sentì salire sulla barca e quindi uscirne. «Ce l'ho?» gridò. Ai piedi della collina apparve un lampo improvviso e si udì uno sparo. «Mi hanno colpito!» urlò l'uomo. «Attenti, attenti! Mi hanno colpito!» E subito si scatenò il fuoco di tutti i fucili. La collina prese a vomitare fiamme e boati nella notte come un piccolo vulcano. E quando Brown e lo Yankee posero fine, con scappellotti e imprecazioni e quelle scariche isteriche, un gemito stanco e profondo salì dal fossato, seguito da un lamento così triste e straziante da far gelare il sangue nelle vene. Quindi una voce forte e chiara che veniva da oltre il fossato pronunciò diverse parole incomprensibili. «Nessuno spari!» urlò Brown. «Che cosa significa? Mi sentite sulla collina? Mi sentite? Mi sentite?» ripeté tre volte la voce. Cornelius tradusse e quindi suggerì la risposta. «Parlate!» gridò Brown. «Vi sentiamo!» A questo punto la voce, che aveva assunto il tono declamatorio e ampolloso dell'araldo e che si muoveva in continuazione lungo il margine del tratto incolto, proclamò che fra gli uomini della nazione Bugi che vivevano a Patusan e gli uomini bianchi della collina e quelli che stavano con loro non poteva esserci fiducia, compassione, colloquio o pace. Era un Bugi di Tondano, giunto recentemente a Patusan, imparentato con l'uomo ucciso nel pomeriggio. Quella famosa fucilata che aveva colpito da tanto lontano aveva effettivamente gettato il terrore fra gli astanti. Un uomo che era certo di essere al sicuro era stato abbattuto davanti agli occhi dei suoi compagni con le labbra ancora atteggiate in un sorriso per una frase spiritosa. E in quell'atto era parso loro di vedere una crudeltà che aveva suscitato una violenta rabbia. Quel suo parente, che si chiamava Sillapa, si trovava allora presso Doramin all'interno della palizzata a una distanza di pochi metri. Lei, che conosce bene questi uomini, deve ammettere che costui mostrò un insolito coraggio offrendosi di portare il messaggio da solo e al buio. Strisciando sul terreno scoperto, aveva fatto una deviazione sulla sinistra e si era trovato di fronte alla barca. Trasalì quando l'uomo di Brown si mise a gridare. Si sedette con il fucile appoggiato sulla spalla e quando l'altro balzò fuori allo scoperto tirò il grilletto e in un attimo piazzò tre pallettoni nello stomaco del malcapitato. Giunse infine la marea e pose fine ai lamenti e alle urla di dolore. Era prossima l'alba e Brown, seduto con il mento appoggiato sulla palma della mano, stava osservando Patusan come si potrebbe osservare la parete di una montagna inviolabile. Quando udì il breve boato di un cannone da 6 libbre sparato in un punto imprecisato della città sottostante. «Che cos'è?» chiese a Cornelius, che gli girava intorno. Cornelius tese l'orecchio. Il suono attutito di grida molteplici si propagò dalla riva del fiume per tutta la città e un grosso tamburo cominciò a rombare, cui risposero altri con il loro vibrante, monotono ronzio. Minuscole luci sparse qua e là cominciarono a brillare nella parte della città rimasta al buio, mentre da quella illuminata dal riverbero dei fuochi si levò un mormorio di voci profondo e prolungato. «È tornato!» disse Cornelius. «Come, di già? Sei sicuro?» chiese Brown. Sì, sicuro. Senta il rumore!» «Perché fanno tanto fracasso?» proseguì Brown. «Per la gioia!» sbuffò Cornelius. «È un grand'uomo, e con tutto ciò è come un bambino. E loro fanno tutto questo strepito per fargli piacere, perché non lo conoscono veramente.» «Senti un po'», disse Brown. «Come si può arrivare fino a lui?» «Verrà qui a parlarle», dichiarò Cornelius. «Che cosa vuoi dire? Che verrà qui come per fare una passeggiata?» Cornelius annuì vigorosamente nell'oscurità. «Sì, verrà direttamente qui a parlarle. È proprio uno sciocco. Vedrà quanto è sciocco.» Brown era incredulo. «Vedrà, vedrà», ripeté Cornelius. «Non ha paura, non ha paura di niente. Verrà a ordinarle di lasciare in pace la sua gente. Nessuno può disturbare la sua gente, è come un bambino. Verrà subito da lei. Ahimè, conosceva bene Jim quella piccola carogna, come lo definì Brown durante il nostro colloquio. Sì, certamente, continuò animandosi tutto. E allora, capitano, dica a quell'uomo alto con il fucile di ammazzarlo. Morto lui, tutti avranno una tale paura che lei potrà fare quello che vorrà. Prendersi tutto quello che vorrà e andarsene quando vorrà. Sarà bellissimo. Si mise quasi a ballare per l'impazienza di quell'attesa. E Brown, volgendo la testa a guardare dietro di sé, scorse alla luce impietosa dell'alba i suoi uomini inzuppati dalla rugiada, seduti in mezzo alla fredda cenere e ai rifiuti del campo, smonti, laceri e scoraggiati. Christian Jansante ha letto Lord Jim di Joseph Conrad. Riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.